Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, parleremo delle uova del sindaco e del paradiso dell'identità. Chiuderemo con le parole di Pappagallo.